Europa 24. Un saluto da Anna Migliorati ed è polemica aperta tra Medici Senza Frontiere e Unione Europea sulla gestione dei migranti in Turchia. L'ONG ha annunciato che rifiuterà ogni finanziamento per protestare contro quella che definisce la vergognosa politica rispetto alla crisi dei migranti. Annuncio arrivato direttamente dal segretario generale di Medici Sans Frontières e immediata la replica di Bruxelles. Medici Senza Frontiere non è un partner attuativo dell'aiuto umanitario in Turchia, ne ha fatto richiesta di finanziamenti per le sue attività in quel paese, ha precisato il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas. E intanto, a meno di 2 settimane dal Consiglio europeo, il Migration Compact trova invece il sostegno del commissario allo sviluppo e cooperazione Never Mimica. Allora lo sentiamo, intervistato a Bruxelles alle giornate europee dello sviluppo, da Valentina Furlanetto. Italian initiative on Migration Compact, let us call it. L'iniziativa italiana del cosiddetto Migration Compact proposto da Premier Renzi è stata molto apprezzata e tempestiva, considerata la crisi che l'Europa sta attraversando sulla questione migranti. All'interno della Commissione questa proposta viene valutata molto seriamente. Bisogna integrare di più la cooperazione e la gestione dei flussi. Bisogna lavorare più sistematicamente su questo, costruire un nesso fra gli aiuti allo sviluppo e le cause profonde della migrazione, soprattutto quelle illegale. To tackle the root causes of a present situation where there is irregular migration, where there are può davvero funzionare. Le cause profonde della migrazione sono la povertà e la mancanza di prospettive, di lavoro, di educazione, di formazione professionale, di infrastrutture come l'elettricità e altro. In questo senso, aiutare i paesi di origine e transito, creare le condizioni anche per investimenti privati in quei paesi, ecco, questo può aiutare a sopprimere le cause profonde della migrazione. The causes and the root causes of migration. Un minuto di silenzio ieri sera alla riunione dell'Eurogruppo a Lussemburgo per la deputata britannica uccisa nel Regno Unito. Oggi i ministri economici hanno ripreso la riunione allargata all'Ecofin. Sul tavolo c'è la politica fiscale. Il negoziato sul pacchetto anti-evasione delle multinazionali è ancora molto difficile. Sto negoziando dietro le quinte con molti paesi, ma non faccio promesse, ha detto, non nascondendo le sue preoccupazioni, il presidente dell'Eurogruppo e dell'Ecofin Dijsselbloem. La proposta di gennaio della Commissione puntava a combattere lo spostamento dei profitti delle multinazionali allo scopo di evitare la tassazione negli stati meno convenienti ed è arrivata comunque sul tavolo. È un giorno importante per la lotta all'evasione fiscale, ha detto, lo sentite, il commissario Moscovici. Cercheremo di trovare un compromesso su una direttiva ambiziosa. Direttiva, ha sottolineato, ancor più decisiva dopo l'emergere dello scandalo dei Panama Papers. E una decisione è arrivata da Bruxelles intanto ed è il via libera ai finanziamenti europei a 12 progetti in Italia nel settore dei trasporti, dall'aeroporto di Venezia al porto di Ancona all'interporto di Padova. Un pacchetto complessivo da 91,4 milioni di euro. Bruxelles ha annunciato infatti oggi i vincitori del secondo bando della Connecting Europe Facility. Sui 41 progetti italiani candidati, via libera per 12. Per ora con l'Europa ci fermiamo qui. Ancora una buona giornata da Anna Migliorati. Come sempre, l'appuntamento questa sera alle 21 a effetto notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.